Attenzione canale 10, c'è qualcuno, cambio. Luciano! Attenzione Luciano, se ascolti il doppio rum, cambio. E di sì. Cappa dai, da parte mia, zona Predaneta. Ma sì, non ma già ti ascolto, dai. E QRM che c'è, capito? Un po'. Sto chiamando a Luciano, quello dell'autotreno che mi è passato davanti, ma mi pare che non ha di più di baracchini. Cava. Mi sto andando da Sidernet a comprarmi lo sgorgante per i lavandini eccetera, perché mi sento asato il lavabo del dove la vittiati là. Mi è copiato? Via, sono già arrivato, dai. Adesso vediamo se ne hanno, perché ce l'hanno un tipo, si chiama Ferrari, che è micidiale. Quello lì sicuro te lo sgorga. Manuel, dai, ci sentiamo fra un 5 minuti, dai, devo entrare dentro adesso. Vediamo un po' se c'è un parcheggio per entrare. Cappa. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno, cambio. Che avanti. Ciao, questo è. Predaneta! Che mi ascolti, sì. Ha voglia che ti ascolto, forte e chiaro. Spero che sta facendo manovra lui. Proprio il chiasso. Chi è? Con le orecchie. Buia. Stanco sono, non sa fare niente. Come sarebbe a dire stanco senza fare niente? Boh. No, sai già, ti stanchi di più senza fare niente che quando fai qualcosa. È normale, no? Sarei annoiato lui. No. Sono annoiato. Uia. Casino. Te no, che non so capannone ne ha visto. Uia. Adesso l'altra tappa è a carica, a fare il gas. Ah, tu sei Manuel, stavo riconoscendo, ragazzi, a Duria. Niente, sono in prova, non lavoro, dai, ma la schiena mia, poverina, mi sa male. A zucchetti di viaggio. Adesso mi prendo una bustina. Sono mi passi. Come c'è una visita, adesso vediamo un po'. E che cosa aveva per fugarsi ospedale? Ah, lo sapevo. Ah, ti sei uscito. Ascolta, ma che tipo di visita devi fare se non sono indiscreto? Ah, perché non vai da Marungiu? Chiama direttamente a Marungiu. E te lo dà lui, se c'è il posto ti fa andare senza cupa. No. Lui. Aiuta. Lui è ASL pure, capito? Anche per me era così. Una volta. Sono andato da Marungiu e me l'ha fatto direttamente. L'ho chiamato al telefono, ho preso l'appuntamento e me l'ha fatto subito. L'eco color doppio, eccetera, ma l'eco al cuore, dai. Però vabbè, adesso oramai ti ha già fatto l'impegnativa, che ha già preso l'appuntamento. Se no, se me lo dicevi prima l'avresti fatto. Non so, ma perché farli se puoi evitarli? Cava, avanti Luca! Sono 5:30 e subito venire qua la pari perché non c'avevo manco cambio giù da marina, casino, grazie. Adesso devo vestire, scendere giù e poi sto cazzo di visita dall'ottorino domani mattina, sto cavolo di naso, vediamo un po' se riesce a fare qualcosa. Cazzo, quei giorni, quando è? Aspetta da poco, 10 giorni fa, cazzo, riuscivo a respirare, brutto, cazzo, cosa brutta, però male adesso riesco un po', per merito dello spray un po' mi aiuto, ogni tanto me lo spruzzo, ma non posso usare un gatto di spray. Ho capito, l'unica è farti l'operazione e basta, lui, quando ci vuole, dai. Tu già in fase di ripresa? Cosa? Ho detto tu in fase di ripresa? Sì, io già cammino tranquillamente, dai. Meglio così, dai, meglio. Vabbè, Manuele, bene, mi ascolti da te. No, da mamma sono Manuele. No, io non ho proprio più niente, ho staccato tutto. Non c'ho più niente. Vabbè, poi quel televisore si è rampato. Io per tanto non riservo ho detto di fare così, se non lo sa lui. Tranquillo. Beh, per buttarmi a buttarlo. Se riesco, vabbè, non penso che vada bene, io ho un 43, mi sa che sia, quello c'è uno sgabuzzino. Dovrei fare delle prove per il display, se va bene, capito. Ma se non è stacco i LED, il pallone LCD si recupera. Le schede no, se no andano. E dai, chiamano, non ci sono problemi. Segnale 5, radio 4, sì. E vabbè, poi chi su che entri tu, ti andava, sì. Carica da parte via, come mi ascoltate, cambio. E già, siamo a fondo scala qua. Cappa, rifornitore di carica. Oia, sì, ti ascolto. Sono arrivato al rifornitore, vediamo un po' se mi mettono il gas oggi, perché stava rifornendo. Ehi, un attimo. Ehi, dai, stanno per aprire, dai. Che avevi così? Ah, gas con la macchina, già. Sì, la mia va a gas a benzina. Va a GPL a benzina. Ah, ma è andata così, l'ha fatto tu il GPL, l'ha messo tu. No, è nata così, l'ho comprata così, nuova. Devo aspettare che aprano la colonnina perché c'è l'autotreno che stava rifornendo. Quasi in Nanda. Stanno per aprire. Bisogna avere un po' di pazienza. Come ti arrivo, Franco? Manuel, cosa ti arrivo lì? Cava. Anche a te ascolto bene, dai. Vabbè, io c'ho un'antenna performante, ascolto bene a tutto. Io pensavo che era annaffata la tua macchina. Cosa? Che pensavo che era annaffata la tua macchina. A nafta, no. Non è a gasolio la mia. No, a gasolio, a nafta. Gasolio cos'è? Diesel. La nafta che cos'è? Gasolio. Oh yeah. Chi è che ha detto pensavo che fosse a nafta? Non l'ho riconosciuto. No. C'è la cisterna che stava riempendo, il gas, cos'è il gasolio? GPL. No, se ne sta andando. Stanno per aprire, se ne sta andando via. Che bagarre, Adesso aspetta 5 minuti, mi faccio fornire 5 o 6 macchine. Perché se no mi mettono la porcheria. Adesso era un po' che non l'accendevo questo apparato. Questo apparato qua. Attenzione, Lucariello, se ascolti il doppio un cambio basso. Buonasera Gianni. Buonasera anche se c'è Luca. Ne approfitto là per dirvi che ora sto uscendo e sto collegando una radio in macchina, così vediamo come mi ascoltate. Io per meccanica, se ti muovi magari vedo anche come ti ascolto io dalla macchina. Cappa, guarda, io intanto sto cercando in quelle coordinate. Devo andare prima in via Canica, poi devo andare a Latte Dolce, dunque farò un giro e vediamo un po' come esco da Smart Mobile. Gianni! Eia! Beh, e dove sei? Canica! Lo stai 5 che non mi hai riconosciuto, ma cos'è? Anna ha fatto la gasolio la tua macchina. Gianni, Gavino sono. Ciao Gavino, buonasera. Ciao Luca, buonasera. Chi è di positivo? Oh ragazzi, una schiena, tu che diventi tecnica, porca paletta, va. Ciao, che si rimetta a posto, va. Poi quando sei un po' di tempo fermo, riprenda lavoro, poi stai fermo, riprenda lavoro. Fiammati di cucumeri, va. Oh yeah. Vabbè, va. Sorvoliamo, dici Aghi. Gavino! Ciao Gianni, buonasera, ben sentito. Segnale 8, radio 5. Da parte mia, coordinate canica rifornitore. Sto aspettando per mettere il gas perché c'è la cisterna che sta andando via. Adesso in questo momento se ne va via e entriamo noi. Positivo Gianni. Come ti arrivo io di lì, coordinate canica? Arrivi bene, Gavi, sono quasi 9, dai. Sì, positivo, dai, la radio è buona. Cappa. Io adesso sono dietro la cisterna e ho detto magari non c'è manco, capito, spazio per passare le onde perché c'è la cisterna davanti a me. Si fa la di polo già, si fa la di polo, è da bowling. Si fa da bowling quello e prende e ha più risonanza. Va bene così, dai. Ogni tanto bisogna attaccare. Sì. Va bene. Riprendi Luca, tutto a dolore, sì, anche io sono tutto a dolore, facciare dai, capita, sono uno straccio sto diventando, sono una merda. Le artrosi sono, capito, e poco mi va. Sono proprio gli artrosi, sì, già. Sono proprio gli artrosi, qua. C'ho questa tipo nervo sciatico, roba del genere, fino al piede mi fa male. Comunque, cerchiamo di andare. lombocefalgia, appidati l'antidolorifico, per quello l'antidolorifico fa bene perché è anche antinfiammatorio, capito? Sì, sì, sì, infatti adesso me lo prendo, adesso me lo prendo. No, questo segnalino che ti sta arrivando da parte mia non mi piace, devo mettere almeno un chilo batte perché di lì devo arrivare almeno 1,40. Te l'ho detto, solo allora mi ha fatto mettere dietro la cisterna perché adesso deve manovrare, deve uscire fuori, capito? Mi ha fatto mettere dietro, quindi praticamente sono dietro la cisterna. Positivo, l'importante è che la radio sia buona e che supero il QRM già. Ah, e adesso riprendo la macchina io già. Comunque qua il mio QTHC 925 dietro la cisterna. Cava cava, va bene così. Quell'antenna che mi hai recuperato tu, sempre. Capo, che c'è allucinante, cavolo, l'antenna. E adesso non me ne ricordavo neanche. Mio cugino, zio Giampaolo, mi ha detto che cosa ha trovato questa antenna buttata in una rotatoria. Però chi ci andava a pensare già che poteva essere la tua? A me mi era venuto a pensare qualche camionista magari di si è svizzata, Luca. Negativo Luca, Salvidio, la leva lunga qua. Chi sì? Sempre Salvidio, Salvidio la leva lunga. Buonasera Salvidio, scusa se ho sentito confuso. Quali sono le tue coordinate, Salvidio? Ci scambiamo tutti i quarti per dicono che la modulazione con quella Luca. Coordinate qua, Monte Rosello Alto. Se non sbaglio tu sia Papatango. Negativo, SP25 Papatango Source. Come ti arrivo di lì? Bene, la radio è buona. Certo che sì. 9+20, tuo segnale, la radio 5. Vabbè, c'è un tuo affischi. Non c'è un affischi? C'è l'antenna, la devo guardare. Luca, ti ho confuso con Salvidio. Vabbè, abbiamo lo stesso microfono, dai. Positivo, positivo. Pensavo che anche tu in baramobile, che sei passato da baracchissa a baramobile, dai. Gianni, e allora, questa cisterna è andata via. Sì, adesso in questo momento, adesso vado a rifornire anch'io, dai. Ehi, fai, riprendi Luca. C'è Roger, ma lui, Luca c'ha la mantovana a tubo, c'ha l'appizzo, io c'ho l'antennino di gomma. Ehi, vabbè, meglio di gomma che niente. Oh, che radio sto usando? Hai degli innischi assurdi. Mi sono fermato un attimo, dai, devo scendere. Hai degli innischi assurdi. Ho capito, devo guardare la scuola con stazionaria, sono qualche mese che non accendo. Dai, riprendo dalla macchina, a dopo. Vabbè, subito mi sentirai tu, ma gli altri vicini mi sentiranno senz'altro. A dopo, ciao Salve. Beh Luca, riprendi. Luca. Va bene, dai, io devo chiudere che devo andare a fare delle commissioni. Saluto a tutti, ci sentiamo dopo se coincide. Vavino fa bianco, Vavino fa bianco, 27075, arrivederci e arrisentirci. Io non è contro di radio? Capa! Perché questo video è più bello, comunque com'è buona, ti puntate su un grossolino a voi, avanti Gianni, venga, e segnale buono ce l'ho, va bene, che poi mi interessava, allora Manuel, sta uscendo bene, sta uscendo, no, sì, comunque la prossima volta che metti la vetrina in Facebook, devi chiedere l'ordine a me e pagarmi la tassa. Sì, che sta bene, dai. Comunque ci sta bene anche casa tua e quella che l'hai messa. Ehi, va bene. Oi. Comunque, come segnare, come ti arrivo con la parola? Che sciogliere, 2, 3, che schifo. Non mi ha nessuno, io ho modificato il mobile qua, Siccome non ci stava il microfono e tutti gli apparati, ho dovuto sollevare di 9 centimetri. Cazzo, aspetta. Cazzo, lo do il tacco io, dai. Pronto? Sì? Pronto? Sì, sta in gestione, sono in business, sto chiamando per... 31, così voi mi chiamate. Però con queste chiamate mi avete rotto i coglioni, non le voglio zimme, va bene? E vaffanculo, ma se vi denuncio, vaffanculo, 50 volte mi chiamate sul cazzo di telefono, mi ha chiuso il telefono, Emanuele, 5-6 volte al giorno mi chiama, anche quando sto facendo il pisolino, me l'hanno rotto le balle, siccome è una registrazione, allora che ho schiacciato uno, così mi chiamano, ma ne chiamato te, Torino, ma io non posso che denunciare perché mi hanno rotto le balle, e avanti, chi chiama? Buonasera, Torino Kawasaki. Saverio, Marracato Mobile, se mi ascolti. Cavolo, se ti ascolto, ciao Saverio, ci sono tornato altro tempo. Dimmi come mi ascolti in radio, che ho cambiato di nuovo il microfono. Una bombetta, sì, Torino, non ti posso dare il segnale, sono in BM, però la radio è forte, è bella di lusso. E la radio mi interessava tutto questo, ok Saverio. Perfetto, di lusso, va bene. Vediamo se che si occupi Manuele che ha l'antenna dentro casa. Manuele, prova per Saverio. Manuele, guarda Saverio se ti ascolta, prova. Buonasera, ben ascoltato. Ti ascolto senza nessun problema. Va benissimo, una radio di 4, non so che dove sei, io sono qua a Monte Rosello. Adesso mi sto dirigendo, devo aspettare scendo la famiglia, devo scendere in via Canica, poi da lì devo andare a Latte Dolce. Poi non lo so, forse se devo salire anche a Serra Secca a ritirare una cosa, vediamo. Comunque, dopo tanto tempo, anni, ho rimontato su una stazioncina al volo così, mi c'ho un'antenna magnetica a centro cappotta, già che mi stai ascoltando va già bene, 4 watt, una LAN 38, come portati le sto modulando mi Tony, non è tisù. E allora vai finché troppo bene, Savi, cavolo, a voglia. Io ho collegato quel PL e quello capito, quel raccordo per mettere l'antenna esterna, è nuda, sto provando questa antenna con la base magnetica, c'ha la bobina trasparente, da sacca, però ho visto che già funge. Stamattina gli intendi un po' che le propagazioni, no? Che alle Baggiara era pieno di francesi, quindi vuol dire che ha una buona anche ricezione. Niente, dai, riprendi. Niente, io ho provato microfono contro microfono, sempre cambiato. Alla fine non ho detto, lui lascia questo qua che ho quel che ho preso e va, tocco bene, gà. Sapete che è fallito. No, sto parlando al telefono. Ok, parlo. Ma lui, stamattina sono andato dal medico legale, troppo d'oro, simpatico, mi ha fatto le foto, la mano, il piede, l'altro piede è diverso, come diverso? Il normale è diverso, è normale. L'altro, quello che ho avuto incidente è diverso, è più gonfio, è strano. Ha detto, ci tengo le scarpe, le calze, sì. Eh sì, in effetti è più grosso, è rimasto così dopo incidente, vedrà lì adesso. Perché se rimane permanente sono cacchi di acidi. Comunque, adesso lui comunica direttamente all'assicurazione e poi l'assicurazione comunica all'avvocato e tirano il tot, dico, fatto, ci vogliono dare. Tanto so già dell'avvocato che non ti spiegano poco, capito? Se mi spiegano 5-10 mila euro, no, aspetta, le 5 le ho già comprate. Attenzione, binario 10, cambio! Certo, avanti binario 10, cambio! Sono rientrato, salutoni ai nuovi entrati, c'è Torino e c'ho gli altri amici, dai! Saverio, l'hai messo in macchina poi? Ehi, Gianni, io sono qua, mi sono casa, se stanno scendendo, stiamo partendo, sto scendendo lì via Canica. Cosa hai messo, la magnetica? Sì, c'ho una magnetica a centro capota. Io questa antenna non la conosco, ho la bobina trasparente. Trasparente, dentro si vede tutta la carica, il rame. E dove l'hai beccata? Roba di magazzino, roba che sto ancora cercando di capire chi era questo CB che modulava tanti anni fa, capito? E la figlia si è disfatto tutto e io tramite altra gente sono riuscito ad avere quelle qualche cosa. Ho capito, dai, recuperata. Sì, e va veramente, veramente bene. Devo guardare a vedere se c'è stazionaria, anche questa è la seconda, questa l'ho messa un attimo a pranzo e poi la sto rimettendo adesso. Domani mattina le controllo, vedo se c'è stazionaria, ma mi pare trasmette bene. Come mi si dica? Qua sono i mezzi palazzi io, mezzi palazzi, zona via Manzoni. No, già ti sento bene, Savi, ti sento bene, non c'è problema. C'è problema. Tu come mi ascolti? Io adesso sono dove c'è la TP, dai. Scappa, dai, è risalendo. Benissimo già, Radio 5, ho appena rifatto l'eco, non ci sono problemi. E a me già, non mi ascolti quelli di Cipressi? Bene, tu, ti ascolto bene, dai, ti ascolto tutti, tutto perfettamente. Vabbè, c'è anche Emanuele che, vabbè, non sai come sta modulando. No, anche Emanuele sento, anche Emanuele. Sento così, avanti Cicomì, Emanuele. Ehi, avanti. Emanuele, questo è intanto sacco il baracchino ma mangiato. Ogni a traffico chi frega. A quest'ora è ora di punta, già lo sai. Ma io ora di punta no, dovevo andare a mettere il gas a chi non ha più più. Beh, è ovvio. Andrà bene. Via Domenzoni. Avanti, Sabì. Arrivo il gas di bombola, già. Cosa? Gas in bombola, non ne vuoi. Se hai bombole da regalarmi, sì. Cazzo, regalarmi. Ti devo pensare, là. Perché bombola è sta facendo? No, non mai. Qui si già. Qui si pesanti, per me sono finiti. Maledizione, per tutti devono essere finiti perché quei pesi lì ti fanno venire le artrosi. Non so cosa lo io. Il messaggio mio non l'hai mai letto tu. Il messaggio tuo non me ne è mai arrivato. Io te l'ho mandato. Ti ho scritto che non potevo via perché è morto mio suocero. Non mi è arrivato nessun messaggio. Allora mi è bloccato, scusa. Ma che numero l'hai mandato? Quando è morto mio suocero, dopo un giorno. Ah, che numero? Che numero? Aspetta, te lo dico subito. Rubrica che tu cambi numero. Aspetta, sto cercando rubrica. Allora. Al 347. E poi? Ma tu non te lo dico, dico finale, 01 finale. Non mi è arrivato niente, Giulio. Io te l'ho mandato. Guarda, ti cerco anche su WhatsApp e dico con esattezza pure quando te l'ho mandato. Allora, dov'è il WhatsApp? Qua, ok, qua. Dunque. Qua sono! Che è fatto tua? Chi è che ti chiama? Ma è morto mio suocero, appena sto meglio e bla bla bla. Adesso sì, online. Non lo so, non boh. Io ti ho cercato, adesso non c'hai foto tu. C'ho poi il corno grande grande, rosse grande, tipo diavolo. Non ne hai foto. Se vuoi ti mando e faccio lo screenshot, non ne hai foto. Ma come non esce la foto? Era cosa l'ho fatto io che non esce la foto. Tu sei online. Adesso ti mando ciao, guardami. Ora se ti arriva. Ti mandato. Guarda, adesso ti mando l'altro. Sì che ti ascolto, Savi, avanti. Dove sei adesso? Cimitero. Questo è il messaggio che ti avevo mandato io prima, a lui. Adesso l'ho mandato. Io via Giovanni Pasco. Dove tutti stanno in silenzio? Adesso mi è arrivato, non lo so, non ho toccato niente, cosa adesso? Buttato ogni tanto va in ditta, avanti Savi. Savinio? Poi avanti. Senta, chiamato Luca. Ehi, Savi, mi senti? Dimmi Luca. Ma adesso non è portatile. E allora, ora la 38 sono. Stai bene lì. Ma sono collegato con l'antenna sopra la capota. Ehia, aspetta, che esci bene, bella radio, bella, va bene. Ma un portatile non si può procurare così. Io già ne ho qualcun altro fra le mani, però non un 38. Ma sono canalizzato e basta, non c'è un display. Vabbè, i display non ne hanno, è vero. Sono le cose dei canali. Fammi sapere quanto. Ma non più di chi su tanto, No, un altro che lo sto sistemando. C'è anche fuori di Gabu, c'ha lo smitter, come più 30. Cavolo, ma va bene, non la 38 va bene. Tu pensi che io ho venduto il Mobi con 40 euro, non mi posso comprare un portatile di 50 euro. Sì, io non volevo mettere a casa di Maria così, ma con la col gommino, tanto mi sentirà Gian Maria, poca gente. Luca, io ce li ho anche due gommini nella scatola, c'è quello corto e quello lungo. Sì, ma li sono portati, ma niente di particolare. Gappa. Ma giubilato un occhio. Ma guardate che va di la scossa e la schiena manuale. Cioè, no, a me vuoi dire mi ha sovrappato adesso, invece, mi ha dato, però piano occhi. Okay. poi si mi alzo di botto, mi si un goldone, un bel forte, cazzo, proprio su come sciomare, ripeto un attimino che vado a cambiare l'acqua agli olifere, arrivo subito. Cazzo, tu camminavi come uno zombie, te lo ricordo, io stesso faccio due passi devo abusarmi, a chiudere due ore troppo forti, per carità. Gianni, dove sei arrivato? Viale Sicilia, dove c'è la settentrionale. Mica c'è qua vicino, dove c'è? A me è Cinti, a me che sono anche in Viale Sicilia. Al semaforo. Ah, semaforo di su sei tu, io sono quello di giù, quello per andare al cavalcavia. No, io sono già arrivato al semaforo di Viale Sicilia. E lì ti arrivo forte già io. Sì, andate tutti bene, dai. C'è a due bassi, dai, linea d'aria. E a me come mi ascolti Gianni? Fortissimo, Fra, ciao, buonasera. Ciao a tutti, auguri. Tu sai che ti hai passato sotto casa, mi sa. Ciao Franco. Ciao Tony. Che io sono qua il coordinato Italia tua, infatti sia una fucilata. No, può cantare più forte, lo fai a 9.60 forse. Sono passato di lì, sto scendendo in via Canica, dunque sono passato via di Sicilia. Sì, siete fortissimi, alla grande. Io sto usando 4 watt, c'ho una 38 e con una antenna base magnetica. No, va bene, capite. Mi non posso avere grandi pretese. Gianni, va la roba all'ordinata, mi poco fa. All'ordinata, bravo. Quando arriva me lo dici, o se no ti do i soldi quando vuoi, non c'è problema. Vediamo se arriva prima. Poco fa, anche se io stavo leggendo un po' di cose, non deve essere un granché. Vabbè, ma per avere un microfono in più, capito? Mi faccio l'attacco per il 3009. Io proverò a fare quello per il Galaxy, o per quello valvolare. Tanto sicuramente nel tuo ci vanno, bisogna invertire le posizioni, te l'ho detto come, in parallelo. Vediamo dai, magari vediamo qualche dritta. Per il mio è così, l'attacco Midland va invertito quelli i fili di sopra a sotto, lo so già perché l'ho già fatto. Non lo so, io dovevo avere lo schema, quello del valvolare, perché avevo adattato il mic di questo samurai a quello lì, quindi non dovevo avere problemi. No, neanche, perché quello è cablato per il Midland, quindi va bene, dai, bisogna studiarlo bene. Cava. Vabbè, tu quando arrivo non me lo dici. Anzi, mi servo il mio numero di telefono, te lo do. Forse c'è la Claudio anche, fatelo dare. C'è la Luca, non so se c'è il tuo. Io ho quello di Natalino. Natalino ce l'avrà sicuramente il tuo, là. Sì, ce l'ha. Quindi o ti fai dare il mio da Natalino o chiedo io il tuo, autorizzalo tu. Vabbè dai, glielo chiedo io. Dilli, manda il numero mio a Franco. Eia. Vabbè, ma non c'è problema, già te lo dà, basta che lui dice che te l'ho detto io. Vabbè, sempre meglio comunque essere autorizzati, dai. Perlomeno io non lo do senza autorizzazione, il mio, o quello di un altro, dai. Fa rotatoria del Tanit, vi sentite ancora, eh? Bene. La bandetta da parte mia. Rotatoria Tanit, in discesa per via Canica. Sempre bene, a bomba. Anche qua, dai 9.10 ai 9.20. Allora sono anche abbastanza soddisfatto. Con una 38, l'antenna magnetica, centro capota, cosa pretendiamo? Una volta io dal ghiero arrivavo più forte con la magnetica piuttosto che con l'antenna attaccata, diciamo, però non sulla capota, sulla ruota di scorta. No, ma è discreta questa antenna, mi devo documentare bene perché ancora ho capito che antenna sia. E la marca non c'è, cos'è? C'ha la bobina trasparente, dentro si vede la carica di rame. Adesso mi sto per fermare, dopo lo leggo. Ma di diametro quant'è la bobina? Non è molto grossa come bobina. Ah no, perché non mi sto certo che ha una bobina da 10 cm alla base. Oh Franco, dimmi. Come ascolti il radio così? Tranquillo, non è fortissima, però no, nessun problema. E adesso ha cambiato qualcosa? Va, forse più forte, visto che arrivi più forte di picco. Ora forse la radio ha cambiato, è Piccio o Emilio? No, va bene lo stesso, forse leggermente più forte, perché i picchi di modulazione sono più alti, quindi sicuramente qualcosa è aumentato, o ti sei avvicinato. Ho aumentato le ferre del power, mi va del baracchino. Forse è quello, no, ma la radio va bene lo stesso. Ok, grazie. c'era, ma c'era anche Luca? Yes. Luca Riello, ci sei? Non c'è. Gianni? Ehi, allora io sono arrivato a casa, ho smonto tutto e poi riprenderò da casa. Anche tu c'è un segnalone dalla macchina, caspita. Già va bene questa antenna. Guarda, sei 9, quasi su 9.30, Anche da me, è così, hai messo un po' di vitamina D. No, c'ho sempre la stessa cosa, non ho né lineare né nulla. Ottimo. Vabbè, da dove sei tu nei parcheggi, giustamente, lineare a me ci sei vicino già, Sì, vabbè, dai, io sto chiudendo, ciao. Ciao, ciao. Ok, guarda, arriva quasi come che sia l'antenna sul tetto. Sono per 30, no, metra lo 0-0. A casa sua arriva proprio su DD. Addirittura, no, adesso qui quando sono passati sotto casa erano proprio fondo scala, 9.60, tutti e due. Ciao, una combinaria, mi sto cambiando questa dalla 25. Sì, ciao Luca. Luca, mi senti adesso che mi sono allontanato un po' dalla città? Sì, 9.95, salve, ti ascolto bene. Aspetta che vi dico il nome dell'antenna. Sapete, da me 9.10. No, qua è sceso adesso, io ho 5. Sapete, dove sei adesso? Ma mi sa che è Tottanit, no, Tanit. C'è scritto Sunker Elite CB, poi non so una sigla. E c'ha la bobina trasparente, la scritta è rossa. No, non la conosco. Lunghezza 1.50. Mi copi Saverio? Saverio, mi copi? Saverio. Ehi. Sta chiamando Antonio, lo senti? Lo sento, ma non penso che senta manco a me. Adesso sono qua in mezzo a quei palazzi che ci sono in via Canica giù. Capito? Però 5 minuti e mi sto rispostando da qua. Dopo li sentirò tutti bene. Io non so per 9, 10, 9, 5. Comunque l'ho vista l'antenna, Salvia. Quella scritta è in rosso. Sì, Sunker, prova a leggermi se l'hai trovata su internet, a leggermi le caratteristiche, cosa può caricare di watt, ecco la base magnetica. Guarda, l'ho trovata su Amazon, puoi caricare 600 watt, è alta 1,40 m, da 1,40 è la tua? Ma ho detto 1,40 ma forse anche 1,50 Lo stilo è in acciaio. Sì, la acciaio, però aspetta che ti dico il finale della sigla, che devo passare dall'altra parte, c'è una sigla, c'è scritto CB, adesso per dire 113, una cosa del genere, aspetta che te lo dico. Questa qua è CB 115. Confermo, CB 115. E allora è uguale, da 1,50, dai. Non lo dovrebbe essere. Comunque, cosa ti ho detto? 600 watt. L'antenna c'è l'attacco tipo PL, la puoi smontare, vedi? Ho capito, posso attaccare il PL direttamente. No, l'antenna proprio la puoi svitare dalla base magnetica, è tipo un PL. Sì, capito. Ascoltami, dimmi il prezzo, quanto costa? Aspetta che torno indietro. Allora, sei disponibile? No, c'è scritto al momento non disponibile. Vabbè, ma il prezzo non lo dava. No, non te lo dà, quando non è disponibile Amazon prezzo non ne mette. Cosa stavo dicendo? Guarda le caratteristiche, adesso è una mezz'onda. Ci sono vari modelli, questa per esempio è da 70 centimetri. Devo guardare, lì non lo dice, neanche il guadagno mi dice. Devo cercarne qualche altro modello in qualche altro sito. No? Bianco per me un attimino che controllo. Avanti, Tony. Gappa. E avere orientativamente anche quanto potrebbe costare. Gappa, io se facciamo una bassa sto facendo. Sami, mi copi adesso? No, non mi copi. Lucariello, ci sei? Beh, Franco, hai trovato qualcosa? C'è un tipo che sta facendo la recensione, ma è in lingua... È bellina comunque, sembra che funzioni bene. Sembra di sì, c'è la bobina trasparente sotto, no? È carina. Però a vedere l'avvolgimento dentro del rame non mi sembra un'antenna che possa caricare 600 watt. 600 mi sembra che ha letto, 600 watt. Ci pensiamo un po'. Vedete il rame quanto è robusto. Non sembra molto grosso, sarà da qualche millimetro, da 1 a 1,5. La base magnetica mica non metterli mai così tanti watt. Bisogna vedere come si comporta con un rosmetro, dai. Domani la misuro, domani la controllo, adesso si muoviamo fa. Capito, c'ho sono a centro cappotta, io non so se ho un wagon, quindi già c'è un buon piano di massa. Allora io ripeto una volta, andavo meglio con la magnetica piuttosto che attaccata dietro la ruota, dai. Sì, sicuramente non ha un piano di massa, perché è attaccata una staffa, come la usano i fuoristrada, dai. Più altro ho perso un po' a Torino, lo sento basso, prova a chiamarlo a vedere se c'è ancora. Oh, non ti sente bene. Torino Kawasaki, mi ascolti? Torino, è forse si è allontanato. Come sto arrivando adesso al tuo QTH, io sono qua in mezzo ai palazzi che ci sono giù in via Canica, vicino all'autorizzazione. Qui adesso il mio è un po' avaro come smite, comunque il segnale è 3, una radio di 4. Ma come esco da mezzo questi palazzi, ma tranquillo che già mi senti di nuovo forte. Io non sono liscio, Capa, non arrivi benissimo, alla grande. Vabbè, il segnale non è alla 38, però la radio è ultima. Sì, sì. No, non ho nessun problema, poi io qua non ho QRM, perché anch'io la mia antenna non è sul tetto, Quindi anch'io perdo, sia in trasmissione che in ricezione. Capa, sto aspettando la luce che sta facendo una commissione e poi riparto per coordinate laterali, se tanto prendo la 131. Sì, mio. Sto cercando di prendere l'antenna. È sempre non disponibile. Comunque ho trovato quella più piccola sulle. Qui c'è il peso, ecco qua, la lunghezza del cavo 4 metri. 600 watt, cioè 4 dB di guadagno. È buono, però ero interessato a sapere il prezzo, ma invece non riesci a trovarlo. Perché non me la dà disponibile, capito? Quindi non mettono il prezzo, anche qua il prezzo non ce n'è. E tu scrivilo direttamente su Google e poi te lo fa aprire dove praticamente c'è, magari su eBay, su altri posti, ti fa vedere direttamente dove ce l'hanno disponibile e quanto costa. Ah, forse è questo, allora importo un pezzo che viene 31 euro, forse sono 31 euro costa, se ne prendi una, se ne prendi tre ti viene a 28, una cosa del genere, se ne prendi 10 ti viene a 24, più ne compri meno costa. Ma se la, come si dice, la compri senza base magnetica? No, qua mi dà, è tutto un kit, praticamente l'antenna si avvita sopra la base magnetica, è tutto un blocco. Se uno può lavorare la mettere fissa. Come fai? Dovete avere un altro attacco con maschio APL, PL maschio, in modo che tu poi ci avviti sopra l'antenna. Penso che non ci siano problemi per recuperarlo il maschio dell'antenna. Dai, un attimino, aspetta, sa che ho accusato la figlia. Eccomi! Beh, già. In postazione, dai. Finalmente ho finito, ho fatto tutto il giro, sono andato da Sidere, poi sono andato a comprare la carne al centro carni, ne ho già fatto un po' di gol. Va dove? Vuol dire che sei meglio, dai. Devo uscire perché, no, già sto meglio, sto camminando bene già. No, lo sai cos'è? Il cane quando mi tira mi fa ripristinare tutta la muscolatura. Me ne accorgo perché me lo sento in tira, capito il muscolo? Ti allunga un po' la muscolatura, è un po' le vertebre anche. Stanni con il sito a QTH. Gappa. Sì, Savino, dove sei? Sono in mezzo ai palazzi qua vicino all'autorizzazione. Ti ascolto bene, dai. Quando riparto che riesco da qua già mi sentite meglio, dai. Qua c'è 9-10. Capito. Col portale, con la 38 è un antennino magnetico. È 4 watt. Ma l'antenna lunga è, Savino? Sarà 1,50 m, non lo so, domani la misuro. Già va bene, dai, è una buona antenna. Sì, io me la ricordo con l'antenna, con il coso trasparente, con la plastica trasparente dove c'è la carica. E sotto c'è la targhetta, l'anello rosso con la scritta, tutta la scritta, il nome e la sigla, CB115, la sigla, si chiama, ma me lo sono già dimenticato. Il nome, però già l'avevo vista in giro, non è che le avesse ben trattate, perché usavo Sigma o LEM come antenne, non usavo altre. C'è scritto Schunker 115, comunque costa sulle 31 euro, l'ho trovata qua, più 5,20 euro di spedizione. Il prezzo è quello comunque, dai, all'incirca. Buono. Ottimo prezzo, dai. Funziona anche bene, e tra l'altro è completa di bagna magnetica, praticamente è un kit. La base e poi sopra la VT APL. Lui stava pensando, vendono una stampa per auto o qualcosa, un attacco per auto con attacco APL. Gianni. Dimmi, l'attacco, oppure lo devi smontare dalla, dalla base magnetica l'attacco e metterlo da sotto la macchina, boh. No, ci dovrebbe essere, perché ci sono delle antenne che vanno direttamente a vite, capito, sulla capota. Sì, questa è a PL, c'è l'attacco PL normale. Tappa. Sì, ci sono, perlomeno con le antenne li vendono, non so se singoli li vendono, non te lo so dire. Dobbiamo guardare su internet l'attacco per auto a PL, maschio. KK. Un 100 watt qua è scolata la lavata. Non ho capito, scusa. Ci metto un 747, 100 watt, esco la canovata. Eh sì, se tiene la batteria, che devo usarla in movimento. Ecco. Stavo dicendo, comunque, portate le chiuse in scatola sua originale, con due antennini di gomma, uno lungo e uno corto. Tutte istruzioni, la scatola originale, l'antenna, l'attacco PL che ha l'attacco al PL e poi la modifica quello dall'antennino, capito, per avvitarci il PL dell'antenna. Tutto quanto, 30 euro, già andava. Allora. Allora, ho trovato il cavo d'antenna con l'attacco a PL da mettere alla macchina sulle 13,90€, 14€, dai. Più non so se ci sono spese di spedizione. Comunque già lo vendono con l'attacco lì. Sì, beh, ce n'è l'antenna, capito? Per dire, le diamo quelle antenne lì, hanno tutti quell'attacco. Sì, sì, qua qui vendono proprio solo il cavo con col PL maschio, quindi lui se lo vuole fare per non rovinarti la base magnetica, quella la può sempre utilizzare, si compra questo kit e poi c'è tutto, quello c'è la rondella, tutto. Paga, lascia vedere se deve venire a fare. Sì, l'ho svitato ora, attacco PL, se mi sa tanto mi compro il cavo, quello che stai dicendo tu, è l'attacco a capota, certo capota, tanto zero la fai, cavolo. Sì, ho trovato questo sito, si chiama DigiSat Italia. DigiSat Italia. Una bella stampa li devi fare. Salve, un bel buco li devi fare. No, ma sicuramente si mette da sopra, non da sotto, capito? Quindi il buco non è molto grande. Ah, buco. Non usarci. Vabbè, ma la parte dove c'è attaccato il filo va sotto. Sì, da sotto, quindi ci va sicuramente la vite da sotto, c'è una specie di pipetta lì, però si vede che la base va messa da sopra, c'è già la rondella grande, l'attacco a PL, no? Lì ci va un po' di silicone e poi da sotto sarà un foro da 8, dai, non penso di più. Cazzo. E io la volevo mettere, però non al centro capota, dove c'ho la plafoniera davanti, e volevo fare un buco e metterla lì, però la volevo mettere che mi stava facendo l'impianto da pudiche, e gli ho detto di no, che dice guarda che rimettiamo un materiale che non si arrugginisce la macchina, no, meglio di no. Io, in che macchina che ce l'avevo davanti lo stesso, l'antenna, faccio una Panda. No, era al centro capota, era, non mi ricordo male, avevo messo un rondellone perché la capota si muoveva un bel, avevo la frusta nera. Io l'avevo messa davanti nella Panda, davanti avevo fatto il buco con Natalino, mi l'avevo fatto in campagna, la Panda era di mia moglie. Con Natalino in campagna sua abbiamo fatto il buco e l'abbiamo piazzata. Quando sono ritornato a casa mia moglie è andata a prendere la macchina e c'è questa cosa che cos'è sulla capota. E gli ho detto non ti preoccupare, oh, non è problema di antenna, mamma mi deve essere rivista a tutti. Allora non piace essere lasciato l'attenzione, anzi non a tutte. Anche a me mi sa mai l'endia va, quando vedo l'antenna inutile si buntani. Invece la mia, dicevo, nella rotta di scorta non si vede molto, poi in acciaio è quasi trasparente. Tu fai come ho fatto io, questa ragazza diceva, ah guarda, attaccanarli lì. E gli ho detto, se l'avessi avuta dietro non l'avresti vista. La propagazione c'è. Stamattina c'era una propagazione allucinante, qua col portatile mio, lo sai i francesi che sentivo? Bomba! Che portatile è? Si può sapere, sai? Un Alan 38. No, io ne avevo uno Excalibur di portatile, c'avevo 80 canali, c'avevo lo Smith, l'attacco per il microfono, l'attacco per l'antenna esterna, c'aveva tutto, ed era tutto in ferro pieno, ma bello. E vabbè, questo qua omologato, se mi fermo non mi ricordo niente, 40 canali. Mettiti quello in macchina. Infatti sto mutuando con questo. Lo appoggio dove voglio, non ci ho problemi. Mi sento bene, mi sentite? Ah, col portatile sì. Allora, sto mutuando col portatile. Ma se ti trovano col portatile in mano ti morire la multa lo battessi, Sì, ma infatti non le devi tenere dei portatili in mano, lo so. E come parli, scusa, c'è il microfono esterno? Adesso sono parcheggiato, no? A me di notte magari non si vede, di giorno non è un problema, ma tanto non venisci uno di lì. Ma si può attaccare il microfono esterno? No, nella 38 no. Adesso ce l'ho collegato alla batteria che ho dietro del sedile, che è la batteria che uso il gommone. Speriamo di non scaricarla. Kappa. Avanti Tonino. Luce, a meno che non gli fai la modifica a quel portatile, gli metti un attacco di microfono esterno, così te lo puoi usare tranquillamente. Ah, si busca un apparecchio 40 canali, se lo metti. No, ma è nuovo fiammante, con la sua scatola originale e tutto, non lo tocco, no? Non lo tocco, lo lascio così. Peccato, io avevo un Lafayette, un Dynacom 40, e c'aveva anche l'attacco del microfono a 4 poli davanti in facciata, Quello anche io ce l'avevo così, 4 poli. Poteva attaccare sia l'antenna esterna che il microfono. Sì, l'antenna era però attacco a tipo jack da 3,5. A baionetta la mia. No, aveva attacco tipo spinotto da 3,5 per le cuffie, a 2 poli. C'era l'adattatore, ce l'avevo l'adattatore da mettere al PL e poi non c'erivo. E poi avevo avuto problemi, l'avevo portato a riparare in Viale San Francesco, boh, se n'è andato, non so più dove sia andato quello del portatile. Vabbè, pazienza, dai. Io invece quell'80 canale non mi ricordo a chi l'avevo dato, ma me ne sono mezzo pentito, perché andava bene. Io parlavo con Alghero, mi dà sacro cuore, parlavo con Alghero con quel portatile. E tu, era una bella antenna, un antennone enorme aveva. Anche il mio partiva un bel grosso, poi era un bel lungo, sarà stato 2 metri. Ma 2 metri non lo so, però penso 1,5 metri c'era, 1,60 Il mio partiva grosso e poi finiva a fine. Era una bella vita, quelle batterie, vabbè, ci andavano una barca di batterie, diceva 3 file da 3 batterie l'una, o 4 file, non mi ricordo, comunque. Ci voleva l'ira di Dio in batterie. E pesava, anche era un bel mattone, pesava, era bello massiccio. Kappa. Sono bellici quelle apparecchini. Prima li facevano bene, io adesso ce l'ho un portatile, è sempre buttato lì, non lo sto più usando, ma lo portavo prima quando andavo giù con il cane per non perdere il QSO, capito? Capo c'è che stasera se lo trovo me lo porto giù. Ma se arrivi bene, poco fa con la macchina mi arrivavi, sembravi come adesso che sei a casa, un segnalone poco fa. Sì, vabbè, ero in zona, dai. Comunque anche da Alghero arrivo bene.